Ciao, sono Barbara e siamo di nuovo su Yogurt Acid Care. Yogurt Acid Care è il mio progettino, una visione estensiva dello yoga, fluida, vista come una sorta di potenziale cura di sé radicale, applicata in un contesto non idilliaco né bucolico, ma quello urbanizzato e frenetico in cui viviamo. Questa serie di episodi, che dovrebbero essere in teoria nel totale 14, sperando che tutto vada bene, sono dedicati specificamente a questo secondo lockdown che stiamo vivendo in zona rossa. Io sto streamando da Milano e siamo di nuovo in balia di eventi, virus, politica, economia, cazzi mazzi. Non è chiaro cosa possiamo fare al di là di consumare e lavorare. E non è chiaro quanto ne soffra la salute mentale in questa situazione un po' costretta e miserabile. Per cui ho deciso di affrontare questo percorso di 14 giorni con voi, che avrei sicuramente fatto per me. E infatti vorrei qua fare un piccolo disclaimer. Non sono una teorica della disciplina, ma sono una devota praticante e insegnante che vuole solo condividere con voi delle cose, dei pensieri, degli spunti che aiutano me ogni giorno a settare la mia attitudine e il mio umore in maniera bella alta rispetto alla media che mi circonda. Quindi mi aiuta a circondarmi di energie alte e nuovo prana. Siamo all'episodio 9. 9, ce l'abbiamo fatta. Ogni episodio è andato in onda alle 10 del mattino e poi è subito disponibile in archivio sia su radiovirus.org che sulla mia pagina personale Mixcloud, che trovate attraverso il mio link Instagram o attraverso l'archivio stesso, seguendo i link. Il mio Instagram è @barbaralamulas, all together. Così anche la mia mail. E sul mio Instagram potete trovare anche delle pratiche più fisiche e dei link al mio Patreon. Ho selezionato per questa serie di 14 giorni una serie di mantra che siamo già andati alcuni a capire e altri ancora sveleremo pian piano. Poi ho anche parlato dei 7 interruttori per la felicità, li ho svelati tutti e lentamente andremo a rivederli con ordine. Il mantra che ho scelto per oggi è piuttosto speciale, densissimo, densissimo di significato. Vediamo cosa riusciamo a ricavare. Il mantra è Om Shrim Shriye Namaha. Om Shrim Shriye Namaha. Potrebbe essere difficile da ricordare, proviamo a tenere a mente almeno Om Shrim Namaha. Om Shrim Shriye Namaha. Che cosa sono i mantra? I mantra, sintetizziamolo per la nona volta, sono cibo per la mente e per l'anima. Sono delle composizioni di sillabe o parole che hanno una connessione diretta con queste corde, sia per il suono, le frequenze e le vibrazioni connesse, sia per il significato. Una cosa un po' curiosa, non so se avete mai assistito al movimento dell'acqua vicino al basso. Non so se siete mai stati vicino a un sound system o a qualcosa che emettesse delle frequenze abbastanza potenti. Se anche semplicemente facciamo suonare una campana tibetana e dentro ci mettiamo dell'acqua, a seconda della frequenza che produciamo, creerà un gioco acquatico diverso. I bassi e le frequenze hanno un potere enorme se pensate che noi siamo composte all'80% d'acqua. Hanno quindi per me un valore terapeutico allucinante. Anche il significato ha un valore allucinante. Chiaramente il significato dipende da quanto una persona ha una sensibilità e spiritualità connessa. In generale si dice che i mantra vadano recitati 108 volte perché i nove pianeti, muovendosi attraverso le 12 costellazioni, creano 108 diversi effetti sulla nostra vita. Penso che queste informazioni le abbiate digerite e vomitate. Oggi andremo di nuovo a vedere il mantra dedicato a Shakti, che è Om Shrim Shriye Namaha. Om Shrim Shriye Namaha. Questo mantra ha un significato densissimo. Questo mantra riapre un capitolo enorme che è quello dedicato a Lakshmi, Shakti, l'energia Shakti. E penso che non sarà esaustiva assolutamente la spiegazione che vi andrò a fare. È uno spunto di riflessione, come si dice con i master. Non ti aspettare che questi 10-15 minuti frontali siano esaustivi, prendi appunti e poi ti fai la tua ricerchina con tutta calma e tranquillità. Om Shrim Shriye Namaha. Questo piccolo statement, questa composizione di parole, deriva dallo Shri Suktam nei Rig Veda, che sono uno dei testi più antichi dei Veda. Lakshmi rappresenta la dea della bellezza, del benessere economico, la fertilità e l'abbondanza. È la consorte di Vishnu, che è anche conosciuto per essere il mantenitore dell'universo. Lakshmi è sempre rappresentata in maniera elegante, con abiti eleganti, spesso del colore fucsia, che è seduta o in piedi sul top di un fiore di loto, un padma. Le sue mani nel gesto di offrire delle monete e del benessere. È una rappresentazione, è una dea in generale estremamente popolare ed è molto spesso rappresentata a fianco a Ganesha, il nostro elefantino, che è colui che rimuove gli ostacoli. Anche Sarasvati è spesso rappresentata con Lakshmi. Sarasvati è la dea della saggezza. Non so se notate che tutte queste figure delle dee, saggezza, fertilità, abbondanza, sono figure legate al femminile. Om Shrim Shriye Namaha è infatti un mantra che invita l'energia femminile dell'universo nella vita di chi lo recita. L'energia femminile è definita Shakti. Femminile e maschile in questa tipologia di approccio non sono gender. Non sono significati legati al genere, come immaginiamo noi in Occidente. Femminile e maschile sono due tipologie energetiche. L'energia maschile è più attiva, l'energia femminile è leggermente più passiva e conservatrice. L'energia maschile viene spesso rappresentata dal sole, in sanscrito Surya. L'energia femminile viene spesso rappresentata dalla luna, Chandra. Questo mantra principalmente cosa invita? Om Shrim Shriye Namaha è un'invocazione alla dea per aiutarci ad avere una prosperità spirituale e un benessere nella nostra vita. Shrim è il bija di Lakshmi. Il bija è il mantra associato a una figura, per esempio ogni chakra ha un bija mantra. Shrim è il mantra di Lakshmi specificamente. E ha una potenza di vibrazioni molto alta e dovrebbe riverberare all'altezza del sacro e plesso solare, la nostra zona pelvica. Ci sono dei simboli e dei gesti mudra associati. Il simbolo è per esempio la Yoni, che è il simbolo della vagina, è simile al fiore di loto. Sia il fiore di loto che anche lui è rappresentato come abbiamo visto perché la dea spesso è rappresentata sopra questo fiore di loto, Padma. Yoni e Padma sono entrambe rappresentazioni di simmetria e perfezione della bellezza. La Yoni, la vagina, è paragonata al loto nella fase iniziale della sua apertura e anche nella sua forma. C'è anche uno Yoni Mudra che è avere le mani con le dita tutte unite a formare un triangolo, indicando con la punta delle dita verso il basso, appoggiando questo gesto all'altezza del ventre. Direi che ci siamo dilungati un sacco a parlare di questo mantra in sé. Oggi invochiamo la dea Lakshmi perché ci possa dare un po' di questa energia creatrice, energia femminile per la prosperità e il benessere in questa fase in cui ci sembra che tutto ci porti via energia. Om Shrim Shriye Namaha, per chi vuole semplificare, Om Shrim Namaha. Shrim Shrim, Shrim, quando ripetiamo Shrim percepiamo la vibrazione all'altezza del ventre, quando ripetiamo Om la percepiamo al terzo occhio. Thank you. Ci prepariamo alla fase pratica. Troviamo una posizione, sdraiata o seduta confortevole. Se sdraiata pancia in su, se seduta cerchiamo di non collassare su noi stesse, ma utilizzare il supporto della nostra colonna. Facciamo qualche movimento antecedente alla meditazione Shavasana, per riattivare questo corpo, per poi farlo sprofondare di nuovo in un rilassamento profondo e totale. Inspirando, magari tiriamo sulle braccia, strecciamo i fianchi. Facciamo qualche movimento rotatorio con la cassa toracica, qualche twist, torsione, se riusciamo a muovere per 2 secondi anche le anche e il pavimento pelvico. Facciamolo. Una volta che abbiamo trovato la nostra posizione confortevole, cerchiamo di promettere al corpo di non muoverlo per tutta la durata della meditazione, per poter bilanciare il nostro sistema nervoso in maniera sottile ma duratura. Portiamo tutta l'attenzione all'interno e chiudiamo gli occhi. Torniamo ad essere delle spettatrici esterne rispetto a noi stesse. Osserviamo senza giudizio né interazione il nostro corpo, il nostro respiro e la nostra mente. Iniziamo ascoltando il corpo, percorrendo tutti gli appoggi del nostro corpo alle superfici su cui è poggiato, senza giudicare né interagire con i sensi. Con questa connessione dei sensi procediamo verso una pratica yoga nidra di sensorializzazione dell'intero corpo. Sentiamo i piedi. Porto tutti i miei sensi all'interno dei piedi. Li sento inspirando ed espirando sempre col naso, li rilasso completamente. Sento adesso il retro delle gambe. Espirando rilasso completamente tutto il retro delle gambe e percorro con il mio respiro anche il fronte, lasciando andare la gamba destra e sinistra. Sento il pube, sento i genitali. Con qualche espiro lascio andare questa zona del mio corpo per poi percorrere con il mio respiro gli organi interni all'addome sino al diaframma. Sento il torace ed espirando rilasso completamente la cassa toracica, i polmoni, lo sterno si distende, clavicole e spalle le lascio andare. Percorro la schiena, ascolto gli appoggi, rilasso ogni singola vertebra dalle sacrali, attraversando le dorsali fino alle cervicali. Distendo poi le braccia, sento il retro delle braccia. Lo rilasso, arrivo alle mani, distendo il dorso delle mani, le dita, falange dopo falange, i palmi e i polsi, e percorro le braccia in salita sino alle spalle, lasciandole andare. Elimino poi le tensioni dalla gola, dal retro del collo, e rivolgo poi i sensi al capo, cercando di ascoltare ogni singolo capello. Lascio andare i capelli uno alla volta e rivolgo i miei sensi alla superficie del viso. Rilasso lentamente le tempie, gli zigomi, le guance, le orecchie, la mascella. Ascolto l'interno della bocca. Distendo la lingua, dischiudo i denti e le labbra e lascio, espirando, che il mio viso sia sorridente e raggiante. Sento l'aria attraverso le narici, rilasso completamente le vie aeree interne ed esterne, poi rilasso le tensioni da occhi, palpebre, sopracciglia, lascio andare i movimenti oculari. Infine rivolgo tutti i miei sensi e la mia attenzione al centro della fronte, all'Ajna Chakra, il mio terzo occhio, tra le due sopracciglia. In questa parte del corpo convergono tutte le nostre attività del pensiero, le onde neurali, che cerco di eliminare con il mio espiro, molto gentilmente. Rilasso completamente la fronte e il primo principio per una concentrazione e meditazione. Osservo il mio corpo più rilassato di prima, pesantissimo, connesso dall'interno. Osservo il mio respiro, ritmato e sottile. Osservo la mia testa, cerco di notare se ci sono differenze rispetto all'inizio nel ritmo interno alla testa. Cerco di mantenere questa connessione durante la pratica del mantra. Inserisco il mantra durante l'espiro, posso decidere di vocalizzarlo a voce alta, melodico o no. Posso decidere di vocalizzarlo mentalmente. La vocalizzazione a voce alta permette alle frequenze di riverberare in maniera più ampia, ma richiede una pratica più elevata, una dimestichezza più elevata dell'uso del respiro pranayama. Vi ricordo il mantra Om Shrim Shriye Namaha. È lungo, possiamo tagliarlo se vogliamo in Om Shrim Namaha. Cerchiamo di percepire il riverbero di Shrim all'altezza della nostra zona pubica. Om, per contro, lo percepiamo all'altezza del terzo occhio. Cerchiamo di inserire il mantra lungo quanto l'espiro senza forzare né l'uno né l'altro, ma sincronizzandoli con calma e rispetto. Om Shrim Shriye Namaha. Om Shrim Shriye Namaha. Om Shrim Shriye Namaha. Ognuno prosegua in maniera indipendente e autonoma. Verrete invitati ad abbandonare il mantra con il suono di una campanella. Om Shrim Shriye Namaha. Thank you. Molto lentamente iniziamo ad abbandonare il mantra facendo qualche respiro più profondo. Rilassiamo la fronte, rilassiamo il corpo. Risvegliamolo gentilmente muovendolo dalle estremità per primo. La sessione di oggi si conclude qui. Il secondo switch che una settimana fa ho svelato per la felicità, quei sette famosi interruttori di cui abbiamo parlato, il secondo switch era trasmettere amore e luce, transmit love and life. I'm wondering, mi chiedo se siete in grado di riflettere su questo concetto e come, se è entrato nella vostra routine della scorsa settimana. Avete trasmesso amore e luce e come? Non è un discorso rivolto a me, è un discorso personale, intimo, di riflessione. Con le persone che hanno un dialogo con me sono felicissima di ascoltare, ma non è necessario, per cui vi invito a riflettere oggi e domani ancora e dopodomani. Oggi in particolare su questo concetto di trasmettere amore e luce. Difficile, tutto molto difficile in questo periodo. Volevo dirvi che non sono sicura che domani riuscirò a fare l'episodio. Ho un impegno proprio allora in cui dovrei andare live. Se vi connettete e non c'è niente, vi invito a riascoltarvi un episodio degli scorsi. O addirittura un episodio del primissimo lockdown che trovate sempre su radiovirus.org o sul mio Mixcloud, tutti carini in ordine numerati. Grazie che mi ascoltate, i miei sbrodoloni mentali. Grazie per la fiducia, perché in realtà sono un'anima un po' collassata anche io, ma spero di trasmettere quella poca energia che mi è rimasta. L'energia si trasforma, dai. Ciao.